E insomma, dopo le piastrelle al fango e il cemento alle ostriche, non mi resta che salutarvi, ricordarvi che potete scriverci a smartcity@radio24.it e scaricare le trasmissioni in podcast dalla pagina dedicata a Smart City del sito di Radio 24. Appuntamento a domani.